alta voce. Massimo Popolizio legge Nos, il naso, di Nikolai Vasilievich Gogol, traduzione di Tommaso Landolfi. «C'è il prefetto di polizia?» esclamò entrando Kavalyov nel vestibolo. «No, non c'è», rispose l'usciere, «è andato via ora». «Ecco qua, non ci mancava altro». «Già», aggiunse l'usciere, «è andato via da poco. Se foste venuto un momento fa, forse l'avreste ancora trovato». Kavalyov, senza togliersi il fazzoletto dal viso, ritornò alla carrozza e gridò con voce disperata: «Avanti!» «Dove?» disse il cocchiere. «Avanti sempre dritto!» «Come dritto?» «C'è una svolta! A destra o a sinistra?» Questa domanda fermò Kavalyov e lo costrinse di nuovo a riflettere. Nelle sue condizioni gli conveniva prima di tutto rivolgersi al tribunale di polizia, non perché la faccenda fosse di sua diretta spettanza, ma perché i provvedimenti che la polizia avrebbe potuto prendere sarebbero stati molto più rapidi che in qualunque altra amministrazione. Quanto al chiedere soddisfazione al capo dell'amministrazione stessa, in cui il naso pareva prestar servizio, sarebbe stato senza senso, visto che dalle risposte di lui si poteva fin d'ora concludere come per costui non esistesse nulla di sacro, sicché egli avrebbe tranquillamente mentito anche in questo caso, come aveva mentito affermando di non aver mai conosciuto Kavalyov. Laonde, questi era già sul punto di dare al cocchiere l'indirizzo del tribunale di polizia, quando gli venne l'altra idea che quel furfante e impostore, il quale già al loro primo incontro s'era comportato con tanta impudenza, avrebbe anche potuto, se gli si dava tempo, battersela in qualche modo dalla città. E allora ogni ricerca sarebbe stata vana, o sarebbe durata, Dio ne guardi, interi mesi. Infine il cielo stesso parve ispirarlo. Decise di rivolgersi direttamente all'ufficio di pubblicità di un giornale ed inserire tempestivamente un annuncio con opportuna descrizione di tutte le caratteristiche del naso, di maniera che chiunque l'avesse scontrato potesse riportarglielo o perlomeno indicargli il suo alloggio. E così, presa questa decisione, ordinò al cocchiere d'andare all'ufficio di pubblicità di un giornale e per tutta la strada non fece che appioppargli i pugni sulla schiena, aggiungendo: «Più in fretta, cialtrone, presto, furfante!» «Signore!» diceva il cocchiere, scuotendo la testa e sferzando con le redini il suo cavallo dal pelo lungo come quello dei cani spagnoli. La vettura si fermò e Kavalyov irruppe, ansante, in una saletta di ricevimento, dove un impiegato canuto, in un vecchio frac e con gli occhiali, sedeva a un tavolo e, con la penna fra i denti, contava certe monete di rame che gli avevano portato. «Chi riceve gli annunci qui?» domandò Kavalyov. «Buongiorno, i miei rispetti», disse l'impiegato canuto, levando un istante gli occhi e riabbassandoli tosto sui mucchi di denaro che aveva davanti. «Desidero inserire!» «Permettete, vi prego d'aspettare un momento», fece l'impiegato, inscrivendo con una mano una cifra sulla carta e spostando con le dita della sinistra due grani del pallottoliere. Un domestico gallonato e con un aspetto che dimostrava la sua permanenza in una casa aristocratica stava in piedi presso il tavolo tenendo in mano uno scritto e stimò opportuno mostrare il suo saper vivere. «Mi crederete, signore, se vi dico che la cagnetta non vale 80 copechi, ossia io non ne darei neppure 8 soldi, ma la contessa le vuole bene, perbacco, le vuole bene, ed ecco qua a chi la trova 100 rubli. A dirle in coscienza, quant'è vero che noi due siamo qui ora insieme, i gusti della gente non tornano mai gli uni con gli altri, ma se sei cacciatore hai da tenere un cane da punta o un barbone, costi 500, 1000 magari, ma che ne sia, un buon cane». Il rispettabile impiegato ascoltava ciò con un viso compreso e nel medesimo tempo andava conteggiando di quante lettere fosse l'annuncio. Di fianco stava una quantità di vecchie, di commessi mercanti e di portieri con annunci da inserire. In uno si cedeva a servizio un cocchiere astemio, in un altro un calesse quasi nuovo portato da Parigi nel 1814. Di qua si cedeva una domestica di 19 anni, sperimentata in faccende di lavanderia, ma buona tutto fare. Di là una solida vettura priva soltanto di una balestra, un giovane cavallo ardente pezzato di bigio, 17 anni di età, semi di Navone e di Ravanello appena ricevuti da Londra, una fattoria con tutti gli accessori, ossia due scomparti per i cavalli e un sito dove educare un magnifico giardino di betulle, ovvero d'abeti. Ne mancava un invito a coloro che desiderassero comprare vecchie suole con preghiera di presentarsi al secondo incanto ogni giorno dalle 8 alle 3 del pomeriggio. La stanza in cui era raccolta tutta questa società era piccola e l'aria perciò estremamente greve, ma l'assessore di collegio Cavaglioff non poteva sentire il lezzo perché si tappava il naso col fazzoletto e anzi perché il suo naso stesso Dio sa dov'era. Egregio signore, permettetemi di pregarvi, è cosa urgente, diss'egli alla fine con impazienza. Subito, subito. 2 rubli e 43 copechi. Un minuto, 1 rublo e 64 copechi, diceva il tipo canuto, buttando in faccia alle vecchie e ai portieri i loro annunci. Che cosa desiderate? Chiese finalmente, rivolgendosi a Cavaglioff. Vi prego, disse Cavaglioff. È successa una bricconata, una furfanteria. Finora non mi riesce assolutamente di capire. Vi prego soltanto di inserire che colui il quale mi riporterà quel mascalzone riceverà a concia ricompensa. Scusate un po', qual è il vostro nome? Eh no, e che c'entra il nome? Io non posso dirlo. Io ho molti conoscenti. La Cecchetariova, consiglieressa di Stato, Pelagia Grigorievna, Patocina, ufficialessa superiore. Se Dio guardi lo risapessero, potete mettere semplicemente un assessore di collegio, o meglio ancora, un avente grado di maggiore. E chi vi è scappato, un domestico? Ma che domestico? Allora non sarebbe una bricconata tanto grande, mi è scappato il naso. Strano, e va sottratta una forte somma a questo signor Nasi? Naso! Ossia, avete capito male, naso! Il mio proprio naso è sparito e non si sa dove. Il diavolo stesso ha voluto farsi beffe di me. In che maniera è sparito? C'è qualcosa che non capisco bene. E appunto, non ve lo so dire in che maniera, ma il fatto è che in questo momento esso scarrozza per la città e si spaccia per consigliere di Stato. Perciò vi prego di inserire che chiunque potrà metterci mano sopra me lo riporti senza indugio entro il più breve tempo possibile. E giudicate i fatti voi stesso. Ma come potrei stare senza una parte del corpo così appariscente? Qui non si tratta di un qualunque dito mignolo del piede che è infilata una scarpa, nessuno si accorge se c'è o non c'è. Io frequento il giovedì sera la casa della Cecchetariova, consiglieressa di Stato, la Padocina Pelagia Grigorievna, vedova di un ufficiale superiore, e questa c'ha una figlia molto graziosa e inoltre piacevoli conoscenze. Ecco, fatevi ora un'idea di quale sia la mia posizione. Non potrò più presentarmi da loro. L'impiegato rifletteva come rivelavano le sue labbra fortemente serrate. No, io non posso inserire un tale annuncio sul giornale, disse finalmente dopo un lungo silenzio. Come? Perché? Perché il giornale potrebbe perdere il suo buon nome. Se ognuno cominciasse a inserire che gli è scappato il naso, capirete, anche senza di questo già vanno dicendo che si stampano tante assurdità e voci false. Ma in che cosa è assurda questa faccenda? Non c'è niente d'assurdo qui. Pare a voi che non ci sia niente, ma vedete, la settimana passata si dette un caso simile. Venne un impiegato, così come siete venuti voi ora, portò un annuncio il cui costo ammontò a 2 rubli e 73, e tutta l'inserzione consisteva in questo, che era scappato un barboncino di pelo nero. Beh, che c'era in ciò di speciale? Non di meno risultò che era un libello. Il barboncino designava il cassiere di non so che amministrazione. Ma io evidentemente nell'annuncio non parlo di cani barboni, ma del mio proprio naso, ossia, come dire, di me stesso. No, non posso assolutamente inserire un annuncio simile. Ma il naso m'è sparito davvero! Se è sparito, questa è una faccenda che riguarda il medico. Dicono ve ne sia di tali capaci di rappiccare qualsivoglia naso. Mi avvedo comunque che siete uomo d'umore allegro e che ama lo scherzo in società. Vi giuro, quant'è vero Dio! Ma dal momento che siamo arrivati a questo punto, prego, vi farò vedere. Perché disturbarvi? Continuò l'impiegato, fiutando del tabacco. Del resto, se non vi infastidisce troppo, aggiunse con un moto di curiosità, darei volentieri un'occhiata. L'assessore di collegio si tolse il fazzoletto dal viso. Veramente oltremodo strano, disse l'impiegato. Il sito è completamente piatto. Quasi si direbbe una galletta appena sfornata. Sì, liscio, fino all'inverosimile. Orsù, continuerete ora a far difficoltà. Vedete voi stesso che è impossibile rifiutarmi l'inserzione. Ve ne sarò molto grato e per me mi dichiaro lietissimo che questo caso m'abbia procurato il piacere della vostra conoscenza. Come si vede, il maggiore sarà deciso per una volta a scadere alquanto. L'inserzione, certo, è un affare di nulla, disse l'impiegato. Soltanto non ci prevedo per voi alcun costrutto. Se proprio volete, fate che qualcuno di penna esercitata descriva il caso come uno scherzo di natura e pubblichi l'articoletto sull'Ape del Nord, giornale dell'epoca assai diffuso, e qui egli fiutò ancora il tabacco, per utile della gioventù, e qui si nettò il naso, oppure solo così, per soddisfazione dei curiosi. L'assessore di collegio perse ogni speranza. Gli occhi gli corsero in calce ad una gazzetta, dove erano i programmi degli spettacoli. E già il suo volto si preparava al sorriso, avendogli scorto il nome di una certa attrice, piacente anziché no, e la sua mano già correva la tasca in cerca di una banconota turchina, giacché gli ufficiali superiori, secondo l'avviso di Kavalyov, non possono andare che in poltrona. Ma il pensiero del naso guastò tutto. L'impiegato stesso pareva tocco dalla difficoltosa posizione di Kavalyov. Desiderando alla meno peggio alleviare la sua pena, volle esprimere la propria compartecipazione con qualche frase. «Mi rincresce davvero che vi sia capitato un tale caso. Gradireste una presa di tabacco? Fuga i mali di capo e l'umor malinconico. È utile persino nei confronti delle emorroidi». Ciò dicendo, l'impiegato presentò a Kavalyov la sua tabacchiera, dopo averne fatto saltare con notevole abilità il coperchio sul quale si vedeva il ritratto di una signora in cappello. Questo atto inconsiderato mise Kavalyov fuori di sé. «Non capisco come soltanto vi dà l'animo di scherzare», disse egli con ira. «Non vedete forse che mi manca appunto quello che serve per fiutare? Il diavolo si porti il vostro tabacco! Adesso non lo posso neppure sentir rammentare, e non dico solamente il vostro lurido tabacco di betulla, ma, per vostra norma, neppure se mi avesse offerto dell'autentico rapé». E ciò detto, uscì profondamente indispettito dall'ufficio di pubblicità e si diresse dal commissario di quartiere. Entrò nel punto che quegli si stiracchiava e borbottava: «Voglio fare un magnifico pisolino di un pardore». Perciò si può immaginare quanto inopportuno riuscisse l'arrivo dell'assessore di collegio. Il commissario era un grande incoraggiatore d'ogni arte e mestiere, ma a tutto preferiva una banconota governativa. «È una cosa», usava dire, «che non ce n'è una meglio. Non è necessario darle da mangiare. Prende poco posto, sta tutta in tasca, se cade non si rompe». Egli accolse Kavalyov piuttosto freddamente e disse che dopo pranzo non era tempo da procedere a inchieste, che la natura stessa decretò di riposarsi alquanto dopo mangiato, dal che l'assessore di collegio poté rendersi conto come al commissario non fossero ignoti i dettati degli antichi saggi, che infine un uomo a modo non perde il naso. detto senza complimenti. E occorre notare che Kavalyov era un uomo straordinariamente suscettibile. Poteva perdonare qualunque cosa dicessero di lui medesimo, ma non tollerava le indelicatezze che si riferissero al suo grado o titolo. Stimava, anzi, che nelle produzioni di teatro si potesse permettere tutto quanto riguardava gli ufficiali subalterni, ma non si dovessero assolutamente tollerare attacchi agli ufficiali superiori. L'accoglienza del commissario lo sconcertò dunque al punto che scosse la testa e, allargando un poco le braccia, proferì dignitosamente: «Confesso che dopo siffatti offensivi rilievi da parte vostra non mi rimane altro da aggiungere». E uscì. Rientrò a casa sentendosi appena le gambe sotto. Era già il crepuscolo. Triste e oltremodo sudicio gli apparve l'appartamento dopo tante infruttuose ricerche. Entrando nell'anticamera, scorse sullo sporco divano di pelle il proprio domestico Ivan, il quale, giacendo sul dorso, sputava contro il soffitto e riusciva a colpire con notevole successo sempre il medesimo punto. Una simile indifferenza da parte di quel tipo lo indignò. Gli dette col cappello una botta sulla fronte, aggiungendo: «Tu, porco, non fai che occuparti di sciocchezze!» Ivan balzò di colpo dal suo posto e si precipitò in gran fretta a sbarazzarlo del cappotto. Entrando in camera sua, il maggiore, stanco e triste, si buttò in una poltrona e disse infine, dopo alquanti sospiri: mio Dio, perché una tale disgrazia? Fossi io senza un braccio, senza una gamba, sarebbe pure meglio, ma senza naso. Un uomo lo sa il diavolo che cosa rappresenta. Non è né cristiano, né animale, né carne, né pesce. Prendilo alle corte e buttalo dalla finestra. E almeno l'avessi perduto in guerra, o in duello, o ne fossi io stesso causa. Ma no, è sparito senza sapere né come né quando. È sparito così, in un soffio. Però no, non può essere, aggiunse dopo breve riflessione. È inverosimile che un naso sparisca, è assolutamente inverosimile. O sogno, o son vittima di un'allucinazione. Forse, chissà come, per errore ho bevuto per acqua l'acquavite che mi passo in faccia dopo la barba. Quella bestia di Ivan, certo, non l'ha portata via. E così l'ho inghiottita. Per convincersi di non essere effettivamente briaco, il maggiore si pizzicò tanto forte che fu costretto a gridare dal dolore, il quale dolore lo convinse del tutto che era sveglio e desto. Egli si accostò pian piano allo specchio e dapprima socchiuse gli occhi con la segreta speranza che il naso, chissà, ricomparisse al posto suo, ma quasi nel medesimo punto dette un salto indietro esclamando: «Obbrobrioso spettacolo!» La faccenda era veramente incomprensibile. Si fosse perduto un bottone, un cucchiaio d'argento, un orologio o altro di simile, ma perdere, che cosa? E per di più nel proprio appartamento. Il maggiore Kavalyov, tutto ben considerato, finì col supporre che la colpa del fatto doveva, secondo ogni apparenza, essere attribuita a nessun altro che all'ufficialessa superiore Padocina, la quale desiderava fargli sposare la propria figliuola. Egli stesso corteggiava volentieri la ragazza, ma evitava un impegno definitivo. Quando poi l'ufficialessa gli aveva detto a chiare note che intendeva dargliela in sposa, egli, lasciate da parte le finezze, aveva dichiarato che lui era tuttavia giovane, che gli conveniva prestar servizio 5 anni ancora, e così ne avrebbe avuti 42 giusti. E però l'ufficialessa, per vendetta, aveva deciso la sua perdita e si era assicurata a quest'uopo i servigi di qualche fattucchiera, giacché non si poteva neppur lontanamente supporre che il naso fosse stato tagliato. Nessuno era entrato in camera sua. Quanto al barbiere Ivan Yakovlevich, questi l'aveva raso già il mercoledì e nel proseguio di tale giorno, e del resto per tutta la durata del giovedì stesso, il naso era restato al suo posto. Ciò egli ricordava e sapeva con precisione. Oltre di che avrebbe dovuto sentir male e certamente la ferita non si sarebbe chiusa tanto presto, né sarebbe diventato il posto liscio come una galletta. Andava architettando piani d'azione. Chiamare in giudizio per via legale l'ufficialessa, ovvero comparire egli stesso in casa di lei e costringerla a confessare. Le sue riflessioni furono interrotte dalla luce filtrante attraverso le fessure degli usci, il che indicava che Ivan, nell'anticamera, aveva già acceso il candeliere. Presto, infatti, comparve Ivan in persona, recandolo davanti a sé e illuminando vivamente tutta la stanza. Il primo moto di Kavaliov fu dar di piglio al fazzoletto e coprirsi il posto dove ieri ancora stava il suo naso, onde lo stupido individuo non restasse a bocca aperta innanzi ad una tale stranezza del suo padrone. Non era ancora rientrato Ivan nel suo covo che si udì nel vestibolo una voce sconosciuta, la quale diceva: «Abita qui l'assessore di collegio Kavaliov». «Entrate, il maggiore Kavaliov è qui», disse Kavaliov, saltando subito in piedi e aprendo la porta. Entrò una guardia di bell'aspetto, con favoriti non troppo chiari né troppo scuri, con guance abbastanza piene, quella medesima, infine, che sul principio del presente racconto abbiamo trovato in capo al ponte Sant'Isacco. «Voi avete perduto il vostro naso?» «Appunto, è stato ritrovato». «Che dite?» gridò il maggiore Kavaliov. La gioia gli toglieva l'uso della parola e gli contemplava avidamente la guardia davanti a lui, con le sue guance e labbra piene che la luce vacillante della candela illuminava di bagliori vivi. «In che modo?» «Per uno strano caso. È stato preso mentre si disponeva a fuggire. Era già salito sulla diligenza di Riga. Da tempo si era procurato un passaporto falso a nome di un funzionario. E il curioso è che io stesso l'ho creduto sulle prime un signore, ma, per fortuna, avevo con me gli occhiali e ho potuto subito riconoscere che era un naso. Giacché io sono miope, e voi che mi state davanti, vedo solamente che avete un viso, ma né naso né barba, non distingo nulla di più. Mia suocera, la madre di mia moglie, neppure lei vede nulla». Kavaliov era fuori di sé. «Dov'è dunque? Dov'è? Ci corro subito». «Non vi disturbate, sapendo che ne avevate bisogno. Ve l'ho portato io stesso. Il curioso è che il principale responsabile di questo affare è quel birbante del barbiere della via dell'Ascensione, che ora è sotto chiave. Da molto tempo lo sospettavo di ubriachezza e di rapina, e non più tardi di 3 giorni fa ha sottratto in una bottega una dozzina di bottoni. Quanto al vostro naso, è assolutamente intatto». Ciò dicendo, il vigile cacciò una mano in tasca e ne trasse un naso avvolto in un pezzo di carta.